Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. L'altro giorno a Milano, scendendo nel metrò, ho preso uno di quei quotidiani gratuiti che vengono dati all'ingresso. Aspettando il treno mi sono messo a leggerlo e proprio sulla prima pagina ho trovato una frase che mi ha colpito. Le canzoni non parlano di chi le ha scritte e nemmeno di chi le sta suonando, ma di chi le ascolta. E con questa frase ho voluto cominciare Eclettica di quest'oggi. È Giulio Caperdoni che, come tutti i giorni, fra le 19 e le 20, è qua a tenervi compagnia, prima di Marco Garavelli e dopo Edo. Però questa dell'orario non vuole essere una costrizione, infatti avete a disposizione il podcasting che vi permette di recuperare volume dopo volume ogni puntata di Eclettica e ascoltarla quando meglio preferite. E visto che quelle parole mi avevano colpito, vado anche a leggervi quanto è stato aggiunto dal giornalista. Conservate dentro un iPod o ascoltate per caso la radio, non importa. Quella musica, quelle parole, confuse, magari in inglese, capite all'incirca, sembrano sussurrate proprio a noi. Diventano nostre, come una giacca che prende la forma del corpo, colonna sonora della nostra vita. Folco. Però non usavi mai le guide turistiche, usavi dei libri ingialliti di 50, 100 anni fa, rilegati in cuoio con i titoli scritti in lettere d'oro. Invece di viaggiare con la Lonely Planet, ti portavi sempre dietro questi vecchi volumi. Tiziano. Sì, perché non volevo sapere in quale alberghetto si poteva dormire per meno soldi. Volevo ritrovare il mondo che era esistito. Sai, il paragone con il passato è sempre importante. Diciamoci la verità. Le guide turistiche sono senza anima. Sono fatte per i saccopelisti che cercano la locanda dove si spende una rupia di meno. Non dicono niente, anche se ti fanno il raccontino della storia. Invece ci sono stati, nel passato, viaggiatori straordinari. E io ho sempre viaggiato con loro. I libri erano i miei migliori compagni di viaggio. Stavano zitti quando volevo che stessero zitti, mi parlavano quando avevo bisogno che mi parlassero. Un compagno di viaggio invece è difficile, perché impone la sua presenza, le sue esigenze. Un libro no, tace. Ma è pieno di tante belle cose. Questo era ancora La fine è il mio inizio, di Tiziano Terzani. Thank you.

perché metto sempre tante canzoni, tante novità all'interno di Eclettica, ma ci sono alcune fra queste in cui credo veramente, sia nella canzone magari che anche nell'artista, come nel caso di Konstantin Gropper, che arriva da Berlino e ha un gruppo il cui nome è Get Well Soon, un esordio con i fiocchi, un intero album molto molto interessante, Rest Now, Weary Head, You Will Get Well Soon, e questo è il titolo dell'album, dal quale sto per andare a estrarre un pezzo, il cui titolo però ve lo dirò solo fra qualche secondo. Infatti nel frattempo voglio ricordarvi che vi siete appena ascoltati Good Times, Good Times con Kids, dove Good Times, Good Times non è nient'altro che lo pseudonimo di Francesco Cinelli, sì, di origine italiana ma poi cresciuto a Londra, è da là che ci manda la sua musica. E poi gli inglesi Misophone, che hanno invece aperto Eclettica, quindi ormai qualche minuto fa, con The Sea Has Spoken. Direi un bel trio di brani per questo martedì, per questo inizio di trasmissione, per questo inizio del volume numero 2. Ed ecco il titolo del brano che sta per arrivare, dei Get Well Soon. Si tratta di I Sold My Hands for Food, So Please Feed Me. Your fist that's In America, una volta sono andato a casa di un fisico che aveva vinto il premio Nobel. Gli ho chiesto: com'è che sei diventato tanto più bravo degli altri? Cosa hai fatto di diverso all'università? Hai studiato di più? E lui ha detto: no. Mentre gli altri non facevano che studiare, io, ogni fine settimana, andavo o a scalare una montagna o a esplorare i fondi del mare. È così che ho imparato le cose che mi hanno reso diverso. Questo era ancora La fine è il mio inizio, di Tiziano Terzani. The sound the Green Lantern made when Sinestro threw him into a vat of acid. Eepa!